Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, traghettatore, bentrovati. Questo viaggio, anche se Ferry Boat è un'imbarcazione, quindi non va sulla terraferma, ma questa volta la spostiamo, facciamo una piccola forzatura perché andiamo a Pisa. Andiamo a Pisa perché parliamo di mobilità elettrica. Voi ne sentite parlare sempre di mobilità elettrica, non passano giorni che non ci siano notizie di progetti che partono su questo fronte. Ebbene, in realtà la mobilità elettrica è ancora di là da venire, ma è un grande progetto che coinvolge molte grandi aziende su tantissimi fronti. Cominciamo oggi a capirne alcuni di questi fronti proprio da Pisa. Pisa Città Laboratorio. Il feeling tra Enel e Comune punta a sperimentare nei fatti vizi e virtù della mobilità elettrica cittadina. E l'appetito viene risparmiando. Ora il primo cittadino pensa di dotare di mezzi elettrici anche la polizia municipale. Per Poste Italiane la missione è d'obbligo, puntare alla distribuzione a impatto zero. Perché a Pisa? Perché queste grandi aziende di cui parliamo, una in particolare, e capirete subito perché, è centrale nel progetto della mobilità elettrica e dell'Enel. L'Enel a Pisa ha il suo centro di ricerca, è proprietaria della rete di distribuzione e ha deciso, di concerto con l'amministrazione comunale e con altre aziende, adesso lo capiremo insieme, di partire con una grande sperimentazione. Vero Andrea Valcalda, buongiorno. Buongiorno. Lei è responsabile, innovazioni e ambiente di Enel, quindi commentavamo poco prima della trasmissione delle grandissime responsabilità, ma anche una bellissima impresa la sua, perché lei è proprio nel punto giusto per affrontare questo tema. Certo, sì, ho una grande fortuna, faccio un lavoro che è divertente e che anche spero possa avere un impatto positivo sulla vita delle persone, essendo l'energia uno dei grandi temi del nostro futuro, e pensare a costruire un'energia più sostenibile, più intelligente a disposizione delle persone è uno dei compiti su cui lavoriamo. Ecco, Enel, lo dice la parola stessa, io ricordo ancora, fra l'altro, spero di non fare un errore, ma insomma ricordo anche la presa che prendeva energia elettrica dal muro, dalla spiaggia, dove era uno spot di qualche anno fa, vero? Così? Certo. Ecco, beh, insomma, quello spot è quasi premonitore, perché in effetti quello che adesso il mondo del consumo sostenibile, forse anche la stessa industria automobilistica, chiedono alle istituzioni, ma anche a Enel nel nostro paese, è di mettere a disposizione l'energia elettrica necessaria e sufficiente per ricaricare in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, l'automobile elettrica. E voi state provando a capire come può funzionare questo sistema, proprio a Pisa. Certo, è proprio quello che dicevo, cioè l'energia come vettore del futuro per migliorare la vita di tutti noi. E la mobilità elettrica è proprio un esempio perfetto, no? Perché vuol dire usare l'energia elettrica in usi nuovi, quindi per sostituire invece i combustibili, e quindi con un forte impatto ambientale positivo sia in assoluto che soprattutto a livello locale, dove ci sono le emissioni più inquinanti, quelle che fanno anche più male alla salute, perché le auto elettriche, è vero, come si diceva, come ho sentito in premessa, è un mondo che la mobilità elettrica è un mondo a venire, ma ci siamo quasi, nel senso che le auto stanno arrivando, i primi modelli, e noi dobbiamo essere attrezzati per questo, e quindi con una rete di infrastruttura di ricarica adatta, per flessibile, ad essere per le esigenze dei cittadini. Ecco, quello che sperimentiamo a Pisa. A proposito di cittadini, viene spontaneo pensare appunto allo spot, no, della presa sulla spiaggia, che la corrente elettrica sia dappertutto, perché ci sono i lampioni, ci sono le abitazioni, quindi sembrerebbe molto semplice, ma in realtà non è così semplice attrezzare una città, per esempio Pisa, per ospitare e servire adeguatamente i mezzi elettrici. Non è così semplice, perché la mobilità elettrica, se vogliamo che veramente prenda piede, che diventi qualcosa di diffuso, ha bisogno di una rete di ricarica dedicata, quindi di infrastrutture sia per strada, diciamo pubbliche, che domestiche presso i clienti o presso i posti dove lavorano, in grado di caricarle in modo intelligente, di essere in rete tra di loro, quindi di fornire anche dei servizi aggiuntivi a questi clienti, è in grado di interagire da una parte con la macchina, quindi riconoscendo per esempio i clienti e consentendo a loro di caricarsi ovunque, dall'altro interagire con la rete elettrica e quindi ragionare in un'ottica di integrazione con il flusso dei carichi elettrici e quindi rendendo l'energia disponibile al prezzo più basso nelle ore giuste. Ecco, al prezzo più basso, perché tra l'altro un problema che potrebbe anche non essere secondario è dobbiamo anche mettere in condizione gli automobilisti di pagare la ricarica, cioè Enel deve diventare anche, deve incassare il pieno di elettricità. Certo, io credo che sia importante, e lo facciamo anche per questa esperienza pilota, no? Dove abbiamo scelto Pisa tra una delle città in cui lo facciamo, proprio perché è una città, come diceva lei, dove abbiamo un centro di ricerca, ma è una città molto emblematica di tante altre città italiane, quindi città di media dimensione, con un centro storico importante, con dei valori anche architettonici e ambientali particolari, una città delicata da questo punto di vista. Beh, come buona parte delle città d'arte italiane, d'altronde. Cosa state facendo a Pisa, in due battute? Pisa, stiamo già installando, perché già ci sono per strada, non sono ancora inaugurate, ma già cominciano a vedersi le prime colonnine di ricarica. Metteremo circa 100 punti di ricarica tra pubblici e privati, perché a Pisa abbiamo selezionato, insieme agli amici di Mercedes, che metteranno a disposizione le prime smart elettriche che arriveranno in Italia, abbiamo selezionato 25 clienti che sperimenteranno con noi il sistema appunto di ricarica. È una cosa che abbiamo condiviso dall'inizio con le istituzioni, col sindaco, è stato uno dei primi grandi sostenitori di questo progetto, e piano piano da lì vorremmo partire rendendo Pisa proprio, come dicevamo, un laboratorio di mobilità elettrica, coinvolgendo poi altre istituzioni, altri operatori economici del territorio, grandi e piccoli, in modo che in qualche modo Pisa diventi proprio un punto dove la mobilità in scala piccola, possiamo cominciare a vedere una città del futuro. E come funziona questa città? Grazie, in bocca al lupo e buon lavoro, perché è importante per noi e per tutti noi quello che lei sta facendo. Grazie ancora e a presto. Grazie a lei, arrivederci. Il dottor Parcalla ha parlato di due cose che adesso vi proponiamo immediatamente. La prima è la Mercedes, la Smart, che rischia di diventare l'automobilina elettrica più diffusa nei prossimi mesi. L'altro è il sindaco di Pisa, che è qui con noi, Marco Filippeschi. Buongiorno. Buongiorno. Adesso le diamo il tempo di spiegare quanto è importante per Pisa, ma prima sentiamo un attimo una breve scheda della Smart, perché è curiosa e divertente. Le Smart Electric Drive saranno disponibili con un canone mensile di 480 euro che comprende noleggio, manutenzione ordinaria, vettura sostitutiva e garanzia per la durata del progetto di 48 mesi, pacchetto assicurativo comprensivo di RCA e furto e incendio. È prevista anche una tariffa flat di 25 euro al mese che include tutte le ricariche necessarie. Le vetture sono equipaggiate con un motore da 30 kW e con batterie a ioni di litio che, secondo la casa, garantiscono un'autonomia di 135 km e una velocità massima di 100 km orari. Intanto, arriva anche lo scooter elettrico Smart, esordio nei prossimi giorni al Salone di Parigi. Beh, sindaco, non è che costi proprio pochissimo, no? C'è un canone mensile di quasi 500 euro, no? Non è proprio, come dire, stracciato come prezzo. Beh, siamo alla sperimentazione, però la cosa che è davvero importante, che ci ha convinto a fare questa scommessa, è che apriamo la strada al futuro della mobilità nelle città, e non solo nella città, perché il futuro della mobilità è elettrico, scusate se è poco. No, infatti, ma guardi, che è una sperimentazione di enorme importanza, enorme valore. No, ma infatti Ferri Bot, anche, no, perché come si è visto, ora si parla della Smart, poi ci sono i motori ibridi, ma insomma c'è una ricerca e ormai anche una promessa di produzione che riguarda tante case automobilistiche primarie come Mercedes, ma non solo Mercedes. Sì, ma Renault, ma tutti sono impegnati. No, noi abbiamo infatti deciso di fare la puntata su Ferribot molto volentieri, perché di mobilità elettrica si parla e se ne legge tutti i giorni. Però di fatto poi, insomma, bisognerebbe proprio andare a capire come può funzionare, e ci vuole che qualcuno passi dalle parole ai fatti, giusto appunto. Quindi l'esperienza pisana rischia di diventare proprio, come dire, assolutamente emblematica e anche di riferimento per tutti. In questo momento l'amministrazione da lei presieduta di cosa si sta occupando? Voi state pensando alla rete distributiva, è così? Sì, allora la cosa più concreta è la rete distributiva, quella che riguarda esattamente il progetto Mobility. Io voglio ringraziare il dottor Vaccarda perché c'è stata con Enel una collaborazione stretta, poi per noi è stato molto importante stare in un progetto insieme a Roma e a Milano, capite che insomma, ma è anche vero che le cose che si stanno facendo a Pisa si vedranno, perché la città non è grande. Quindi mentre Roma e Milano chiaramente sarà un po' più difficile. Che... E perché Pisa è una città visibile al mondo. Ecco. Ma adesso quante ne avete installate? Ci sono già le colonnine, diceva Vaccarda. Un centinaio di colonnine, ecco, il numero preciso non lo so perché c'erano alcune incerte, perché poi abbiamo fatto una... Per alcuni luoghi naturalmente abbiamo coinvolto anche la soprintendenza, no? Abbiamo curato di non essere invasivi, perché Pisa è chiaro. Soprattutto ha valori monumentali molto importanti, però ecco, devo dire che a partire dal concorso per fare la sperimentazione, per la scelta dei 20 cittadini, all'attenzione che c'è stata sui media, ma quella che sento anche, no? Cioè, è diventato un po' un distintivo di modernità della città. Questi 20 cittadini li avete scelti voi, 20 cittadini che hanno, come dire, accettato di fare, no, di fare un po' la sperimentazione. Su un sito internet si potevano raccogliere candidature e poi intanto ne hanno scelte 20. E quello che ci dice Enel è che, insomma, per soddisfare una domanda più ampia ci vorrebbe una produzione più ampia di smart solo elettriche, no? Come quelle che metteremo in strada. Però non è solo questo, perché poi quando noi abbiamo fatto la dimostrazione della mobilità elettrica, questo è il perno, è il progetto centrale, ma poi è venuta a Piaggio con i suoi porti. Sì, e si è allargata la base, certo. E noi stiamo lavorando a allargare la base degli utilizzatori. Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Molte cose stanno succedendo a Pisa sulla mobilità elettrica. Stiamo parlando col sindaco Marco Filippeschi. Sindaco, delle molte cose ancora le racconteremo fra pochissimo. Intanto mi piaceva concludere l'interessantissima intervista con lei chiedendole: è vero che state lavorando per dotare anche la polizia municipale di moto elettriche? Sì, questo sarebbe un obiettivo, ecco. Stiamo stimolando anche le altre istituzioni a rinnovare il parco auto, insomma, tecnico, e quindi questo vale tanto più per noi. Poi ci sono già città che hanno fatto bene, devo dire, Reggio Emilia per esempio è una città importante, esemplare, che ha fatto cose importanti, quindi noi non vorremmo rimanere soli, anzi, se facciamo rete è meglio, e poi vorremmo proporci anche al Ministero dello Sviluppo Economico, perché le città che hanno progetti avanzati, sperimentazioni avanzate, siano aiutate con azioni specifiche, e io credo che sia giusto fare così, bisogna essere selettivi, fare scelte, chi ha opportunità, chi ha avuto il coraggio di provare o l'opportunità di provare è stato venga premiato, giustamente aiutato, ecco, non è inutile buttare via soldi a pioggia, quindi è una grande opportunità non solo per una città, perché se si crea un gruppo di testa di città medie che fanno ad esempio, non una sola, ripeto, la contaminazione sarà più semplice e più rapida. Grazie. Molto più avanti, fra l'altro, poi cresce la ricerca, diventiamo, diciamo, non solo utilizzatori, ma forse creiamo connessioni che fanno mercati nuovi. Penso per esempio all'infomobilità, cioè a tutto ciò che si può collegare anche alla mobilità elettrica, è un modo diverso di vivere nelle città. Grazie. E di usare i mezzi non solo pubblici ma anche privati. Buon lavoro, sindaco. Grazie, non si arrenda, prosegua così. Grazie, a presto, a risentirci. La saluto. Continuiamo sempre a Pisa, ovviamente ormai restiamo lì perché alcuni esempi li ha fatti il sindaco, uno ci piace farlo noi, appunto di contaminazione, di come si sta diffondendo in città questa voglia di elettrico, e siamo collegati con il presidente delle farmacie comunali di Pisa, che è Fabio Armani. Salve Armani. Buonasera. Anche voi state dando il vostro contributo, quanto piccolo lo capiremo, ma sicuramente di grande interesse e di tendenza, quello di rifornire le farmacie con mezzi elettrici. Questo sta già avvenendo, a che punto siete? Dunque, è un'iniziativa che è partita da poco e si è sintonizzata in modo forte con quella che è stata la prerogativa espressa anche dall'amministrazione comunale, per la quale noi, essendo un'azienda partecipata, abbiamo recepito in maniera significativa anche lo sforzo e l'orientamento, e fra l'altro per noi anche un ruolo sociale che prescinde, no, da essere dispensatori solo del farmaco, ma anche di riuscire a svolgere questa nostra missione in una forma diversa e nuova. Adesso avete molti mezzi che già lo fanno questo? Dunque, noi abbiamo definito già con Enel la definizione di un contratto per l'acquisizione di una smart per quanto riguarda la consegna a domicilio dei farmaci. Le persone anziane, a quelli che non possono, muoversi, immagino. Che non possono, sì, muoversi, e poi contestualmente invece abbiamo definito con Piaggio la sottoscrizione di accordi per l'acquisizione di porter elettrici, questo proprio per le consegne e lo smistamento di farmaci e di prodotti anche sanitari all'interno delle nostre farmacie, che sono 6 dislocate sul territorio. E fra l'altro, ecco, questo servizio come elemento virtuoso che vogliamo, insomma, che venga percepito anche come forma pedagogica, e verrà svolto, e questo è l'altro elemento importante, dagli universitari pisani, dai giovani universitari, per i quali, insomma, noi cerchiamo di creargli anche una prerogativa di reddito, fra virgolette, unito anche, come dicevo, a una forma di sensibilizzazione e di crescita in ambiti che non sono prettamente solo quelli della loro destinazione futura di lavoro e di studio, ma anche appunto più di partecipazione a una vita di una società, e di una città che li annovera appunto come residenti. Bene, bene, Presidente, grazie. Una piccola storia ma molto bella a tutto tondo, per cui l'assistenza agli anziani, le missioni GER, i giovani studenti che arrotondano. Complimenti, è un altro segno di quanto poi la mobilità elettrica non sia solo e unicamente una batteria che si ricarica, ma anche un modo diverso di vivere la città. A presto, buon lavoro, Presidente, grazie di aver partecipato. Indubbiamente è così, e ne parliamo, ne vogliamo parlare anche con un altro protagonista, rappresentante di un'altra azienda protagonista, che fa di questa missione anche, come dire, un elemento forte di responsabilità sociale, che è Poste Italiane. C'è Fabrizio Iovino con noi. Salve Iovino. Buonasera, buonasera a tutti. Fabrizio Iovino è responsabile della funzione tutela aziendale, gestione, coordinamento, sicurezza sul lavoro di Poste Italiane. Adesso è lunghissimo come titolo, ma la sostanza è che lei si occupa del progetto anche di trasformare parte o tutta, addirittura un domani, la forza distributiva delle Poste Italiane con mezzi elettrici, e da Pisa parte proprio un'iniziativa, è così? Sì, sì, è così, ma diciamo che Poste già nel luglio scorso ha firmato questo protocollo d'intesa con Enel Comune di Pisa, proiettato verso quello che ormai per Poste Italiane è un must, cioè percorrere la mobilità sostenibile, non trascurando anche quelli che sono gli aspetti di sicurezza. Ricordiamo anche in tal senso il progetto Green Post, di cui abbiamo avuto modo di parlare proprio in data di botto, sì. Sì, esatto, e proprio da lì siamo partite anche per quest'altra esperienza. Ecco, che cosa state facendo a Pisa esattamente, nei particolari? Quanti mezzi avete impegnati o impegnerete nella distribuzione elettrica? A Pisa impegneremo 9 veicoli elettrici per il momento, che coprono tutta l'area del centro storico, diciamo l'area quella, diciamo, proprio a traffico limitato, sì. Sì, esatto, e saranno 3 porter elettrici, quindi in questo visto che abbiamo qualcosa in comune con il presidente delle farmacie comunali, perché usiamo gli stessi mezzi, e questo ci fa piacere, e poi anche 6 FreeDAC, che sono i mezzi di Ducati Energia, che hanno fatto parte del progetto Green Post, e da cui abbiamo avuto già effettivamente, e che sono collaudati, cioè per voi non sono più una novità. Esatto, no, abbiamo avuto buoni risultati. Tra l'altro, questa flotta di FreeDAC in breve tempo arriverà intorno alle 1500 unità nella nostra flotta. Stavo chiedendo che cosa adesso. Pisa è sicuramente un nucleo d'eccellenza di sperimentazione, anche per capire che cosa può voler dire mobilità elettrica per una città, ma Poste Italiane nel suo complesso, Green Post, a che punto è arrivato, qual è il grado di diffusione e di realizzazione del progetto che lei coordina? Green Post era il progetto europeo che ha visto la sperimentazione su Perugia di 58 veicoli elettrici, appunto i Fridac. Da quella sperimentazione abbiamo fatto un'estensione, quindi adesso siamo intorno ai 250 mezzi che nel corso del 2011 supereranno i 1500. Che è un bel numero, anche se sempre piccolo rispetto alla flotta enorme attraverso cui si muove Poste Italiane, però è un crescendo molto forte, cioè, quindi evidentemente anche l'azienda sta assimilando bene questo passaggio. Sì, anche se noi in ottica ovviamente mobilità sostenibile, ma anche sicurezza, stiamo modificando anche un po' il mix della nostra flotta, quindi meno motomezzi, più zone a piedi, più zone con la bicicletta, più zone con il quadriciclo elettrico. Mm-hmm. Quindi diciamo, ecco, la nostra flotta è composta da più di 22-23 mila mezzi, motomezzi, che piano piano si modificheranno anche nella loro composizione. Quindi il mix cambierà e sarà proiettato verso, diciamo, mezzi più sostenibili. Quello che ci aspettiamo da questi quadricicli elettrici nella sperimentazione di Pisa è una riduzione dei consumi intorno al 55% e una riduzione del 100% delle emissioni. Riguarda le emissioni di CO2, che sono dati già certificati nel progetto Green Post. E scusate se è poco, 50% dei consumi e 100% di emissioni. Grazie e buon lavoro. Iovino, a risentirci. Grazie anche ad Anita Panizzi in redazione e a Roberto Scaltritti in regia. Questa puntata sulla mobilità elettrica vi consiglio di riascoltarla sul sito di radio24.it. A risentirci.